Attenzione, binario 10, binario 12, KKK. Hola, chicos! Attenzione, 12, K, c'è qualcuno? Hola, chicos! Ah, sì, FM, sì, ciao. Ciao, Tore. Come va? È bene, sì, sono le FM, sono. Com'è se le FM stanno? Ma il tuo? Beh, certo che è il mio l'apparecchio, scusa. Se sono le FM, sono il mio, mica è. Io da ben presto sono mai per. Non ho preso da nessuno, grazie a Dio. Tanto meno mi sono fatto prestare. Questo è il 140. Oh, Antone, non ti ho detto che quello, non ho parlato di questi discorsi. Ho detto chi è che è strano, il tuo o il mio di apparecchio? Il tuo o il mio? Vabbè, è un altro apparecchio è questo. Sei basso di radio, eh? Cantorubui Astro. È un bel po' se aumenta, sì. Non posso aumentare, è fatto così, Prova. Fatto così è fatto l'apparecchio. Va bene così, da. Mi ha contento di quello. Io non. È originale, capito? Ok. Ricordi sempre che le FM vuole sempre messa maletta. Ma qua non è a regolazioni, non va nulla. Vabbè, allora, ok, da. Lasciamo così, a cosa vuoi che dica io? È originale o. Qua in NM spinge molto di più, lo vuoi provare? Ah no, c'è bisogno, intanto. Va bene così, fregate. Cosa. Capito Antone, me l'hanno detto, ho fatto la prova, cavolo, in NM spinge forte. In FM è un po' porzoletta la cosa, capito? Vabbè, gli fa la regolazione in seguito per FM. Non è quello, c'è il trim, cioè, non è che. Non è quello il problema. Io non lo so fare, questo è originale, dalla casa. Te lo fa qualcuno, là, non ti preoccupare. Qualche tecnico te lo fa. Non è quello il problema. Scappa, questo è. Alla 100 plus. In Midland. Midland, sì. Ho capito. E quindi no, non lo so, l'ho provato poco fa in AM, cazzo, bella forte. In FM un po' boh. Vabbè, tanto che fanno loro, già lo sai, di fabbrica. Quindi no, questo è originale, un apparecchio originale. Magari io capisco che magari entreranno gente più forte un po'. Non lo so. Te lo puoi sentire in AM, giro e te lo faccio sentire, è molto meglio. No, intanto andiamo tutti in FM, quindi a un certo punto cosa la frutti. Lascialo così, fregate. Era per fare una prova, boh. Buonasera. Buonasera a lei. E allora, come? Scappami, c'è un altro apparecchio, Sì. Anto però ti devo avvicinare al microfono, un pochino, perché dai sbalzi di radio. Lo so, adesso sono vicino, sono. Va meglio Anto. Scappa, non capisco perché, va molto meglio in, come si dice, in AM che in FM. Ma ho compreso una cosa, o ci sarà qualche trimmer, come ha detto Antonello, da toccare, perché è originale questo. Antone, ma Antu, in FM sei una telefonata, attenzione che se riesci a dargli un po' più di radio, ma giusto appena essere un po' più presente, è una telefonata, una bella modulazione, non è forte come la M, gracchiante come non piace a me, però la radio, questa qua è chiara, non c'è niente da dirgli, non c'è proprio niente da dirgli. Non è che è bassa, è una radio in FM, una radio in FM, va bene, va bene. Ciao Antonello, buonasera. Ciao, oh Marco, secondo me è bassa, non è alta, quindi non lo so, magari a te è più vicino, però vabbè è più lontano, quindi a un certo punto risulta l'audio 4, hai capito cosa posso dare? 5 non lo posso dare per niente, ma 4 sì. No, ma non si parla della potenza audio, si parla della qualità, perché a me questa qualità audio piace, è proprio chiara, è in verticale, Antonè. Non è una radio forte, però è una radio rilassante che puoi ascoltare tranquillamente. Tu hai la radio forte, però non è chiara come la sua. Io sono con il microfono normale mio, non è che sto usando il microfono amplificato, Microfono suo, l'MC della Kenwood, quello piccolino, quindi non è che sto usando altro. Ma il processore inserito? Certo. E se attacca il processore è ancora più bella. Ma va, che non esiste. Ho già provato parecchie volte e usciva tutto quanto. Stavo uscendo disgraziato, cazzo, mi avevo sentito. Oh, cambia, dicevano, cazzo, a un certo punto. Ma a te piace quel tipo di emulazione, ma agli altri è totalmente diverso, capito? Se vuoi te lo installo, te, ecco qua. Vale, dipende da che vuoi, lo sai anche tu. Staccato processore, eccolo qua. Beh, va bene o va male? Se tu stacchi il processore devi aumentare il mic gain, perché la radio diventa più bassa, però la modulazione è molto più bella, in FM è molto più bella. E tu considera che sto usando il 450 con l'MC60 e col processore staccato Antone, senza... Tu vuoi che attacco il processore? Adesso ti attacco il processore, guardami. Processore attaccato, adesso ho il processore inserito e adesso lo studio è disinserito, vedi un pochino, cosa è meglio? Guarda, processore inserito e processore disinserito, vedi? Non cambia nulla la vetta, quindi vedi tu. Non cambia niente, Antu, cambia da te? Già cambia già, a voglia che cambia. Cosa è meglio, con o senza? Con è molto forte, molto più fortina, capito? Senza è più normale. Infatti io in FM la tengo senza processore, per come piace a me, poi Antone, se a te ti piace il processore inserito, a me fastidio non me ne dai, attenzione, che sia una cosa chiara, a me fastidio non me ne dai. Però con l'Antonio la modulazione che non è forte, non è assordante, però è chiara. Io entro tra una decina di minuti che mi devo sistemare, che sono entrato da lavoro un quarto d'ora fa, e entro in radio, tanto entrerà anche Tino, Franco, quindi tra 10 minuti potrei essere reperibile. Ce la risentiamo dopo. Kappa, dai, ce la sentiamo T. Ciao, avanti attore, no? Aspetta un secondo, sto entrando due minuti. Hai già detto sulla televisione, eccomi qua, attore. Sono qua a far culo, sbagliato io una cosa. Cosa, Antone? Aspetta, sono qua, sbagliato io poco fa una cosa. Ecco perché cazzo non riuscivo a fanculo a me, cazzo. Ah, non riuscivi a sentirmi così? No, non è quello il problema, no. Non... C'ho questa specie di cosa che ho fatto io, quindi no, a un certo punto tra cavetti, cosa del genere, hai capito? Io ho 5 di cavetti, quindi non riuscivo a coordinarmi da uno e l'altro, ma fa ancora a me. Ho capito, può succedere, Antonio. Ma di segnale com'è, buono? Ehi, buono. Ma passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Prova. 2, 3, 1, 2, 3. 50, sì. 9,50. Sì, 9,50, esatto, sì. E andava, va bene, FM così. Sta lavorando bene comunque, è a posto. Ragazza. No, è molto carica, te l'ho provato in AM poco fa, andava bene. E chi ne cambia microfono se va bene così? Oh, oui. Beh, tanto questo nella zona notte, non è che... Ho capito. Allora... Subito c'ho tre apparecchi, cazzo, è un casino, cazzo, con tre microfoni, cazzo. Da una parte all'altra, tu usi uno, poi usi l'altro, eccetera, eccetera, capito? Cazzo, non male. Funzionano tutte e tre. Questo è l'Alan 100 Plus, versione B però, non come la versione A che faceva cagare. Ho capito, no, io sto usando l'MBP5 e la verità, quello su originale, di questo apparecchio qua, la verità. Dato insieme al microfono normale, quindi a un certo punto è così. Adesso vediamo un pochettino. Per il momento lascio questa roba qui, dopodiché si vedrà. Cazzo, se no gribone nel BP4 lo spinge forte, perché già va bene con questo, va bene. Finalmente, cazzo, che la Midland ha fatto un apparecchio come Dio comanda, anche se è piccolino. Sì, vabbè, ce l'ha anche Giovanna. Giovanna c'ha l'MP4, gliel'ho regalato io col 3009, quindi figurate tu. Esce benissimo, esce. Vabbè, non arriva più di tanto, perché cazzo è dall'altra parte. Quindi fare tutto quanto, la palazzina, eccetera, eccetera. Questo è stato messa lì dove c'è in cucina, sarebbe arrivata tranquillamente a casa tua, questo è poco ma sicuro. No, già non ne ho problemi, io già sento tutti. Io non credo, Giovanna non la senti, se la sente la Giovanna adesso non la senti, questo è poco ma sicuro. Quindi adesso vedo di sistemare un po' le cose per lei, in modo da poter ascoltarla fuori, hai capito? Prima che se ci sbattevi una boomerang, quelle grandi, non sai quanto ci va bene, è forte, che non se ne accorgeva nessuno. E guarda che l'altro là, Giovanna ce l'ha, Giovanna c'è quella che sto usando lì adesso, quella lì che uso io adesso, in questo momento sto usando adesso, questa è la sua, io mi sto sistemando la mantova per usarmela per me, hai capito? E la metto 2 metri dopo della mia, quindi tu. Ho capito. Quindi a un certo punto ha voglia che la senti, che mancherebbe, il discorso è quello lì. Sì, non lo so, cosa c'ha adesso, un dipolo, cosa va? C'ha un dipolo piazzato in pratica nel terrazzino, dalla parte di leva da basso, quindi se tu passi dalla parte di Osimo la senti benissimo, hai capito? Se invece fosse stato vabbè, non è che tu lei parla in terrazzino con freddo che c'è, il discorso è quello, anche con la magnetica, tanto per dire, ma ce la fai cazzo, a Pietro un freddo, no, e lo lascia perdere, detto. Al momento opportuno, detto, ti scendo il cavo giù, da sopra il tetto, 60 metri di cavo, dove lo abbassate, gli ho detto, almeno se è a posto, si installa l'antenna, quella che sto usando io adesso, non devo fare altro che cambiare posizione da una parte all'altra, di 1 metro, E sono a posto, gli ho detto. Antonio. E io. Passate in AM un attimino. Ok, ci sono anch'io. Sì, sì, sì. Sto uscendo con 10 watt. Sto uscendo con 10 watt. È un'altra cosa, vero? Vabbè, di poco che pensate è puntato nella parte di Usino, quindi c'è tutto il cemento armato del palazzo. Forse è stata dalla parte della cucina, dove c'è passata la lavatrice, cosa del genere, l'avete sentito perfettamente, questo è poco ma sicuro, perché mi ricordavo che era di lusso, quindi questo è quello lì. Antonello, dimmi. Adesso attacco l'ICOM e di lì ho le filari e vado in trasmissione con una delta loop, ok? Guarda a vedere se mi coppie. Ed è polarizzata orizzontale. È polarizzata orizzontale. Guardate se mi copiate. Va a vedere. Ciao, la cosa che stavo per non ti preoccupare. Sai cosa era bella come antenna? Quella tonda, cazzo. Me la stavano regalando, cazzo. Ho fatto il coglione io a non prenderla, la verità. Quella tonda. Ho detto, cosa me ne faccio? Ho detto, questa vera sistemata, eccetera, eccetera. Era 10, 20, 40, 80. Cazzo. Ho fatto, ma non prenderla, la verità. Mi sono pentito, cazzo. Tonda in alluminio, cazzo, fatta. In pratica c'era un coso automatico per cambiare le frequenze. Non l'ho presa, cazzo. La fanculo a me, guarda. A volte dibito la testa, cazzo. A volte dibito la testa, cazzo. A un certo punto, lascia stare, a fotte dire cosa tu ne vai, eccetera, eccetera. Cazzo, ci vuole il cavo di alimentazione, ci vuole quello, cazzo, non te lo farò passare. Tutte queste classiche, ma la fanculo a me, cazzo, guarda, a volte. Antonio. Tutto. Antu, dimmi. Adesso sono uguale. Dimmi. Mi copi? Benissimo ti copio. Antonello, tu mi copi? Io non lo sento per niente. Tu adesso, eh? So che non ti sento per niente. Nulla, non arriva nemmeno, niente. Non mi sente, Antonello? Negativo. Negativo, tu mi copi bene però. Sì. È perché è molto direttiva. Lo so, io ti copio benissimo. Eppure, hai visto? Cioè, sto uscendo con allora, 8 metri e... Cazzo, ma tu sei vicino, io no, è vero quello, cazzo, magari mi rifiuto a te. Io proprio non lo sento, niente. Sento solo quel VM e basta, in FM, non sento altro. Tu senti forte, quello che vuoi, ma io proprio... Ma l'hai coperto, mi stavo dicendo roba. Adesso passerà in verticale. Mi senti adesso? Adesso sì. Ok. Quella delta loop è molto molto direttiva. Ha un lato è 2,90 m e gli altri due lati sono 8,40 m l'uno. Con un ballo, un fatto, con un toroide, un admin, un T202 da 0,30 MHz, caricato 4-1. Però è molto direttivo, ho anche la direttiva a 4 elementi io, anche se voglio, però è smontata, non la piazzo, perché adesso non me ne faccio niente, non mi interessa, hai visto cosa vuol dire l'antenna? L'ho avuto anch'io l'antenna. E no, che regalato, non sono fatto. Di mattino. L'ho regalato io l'antenna. Anzi, ne ho regalato due per esattezza. Una a 4 elementi e una. L'ho regalato a Tino, quindi figurati tu. Io mi ha detto mamma, dice, se tu installi questa antenna qui, in questo palazzo qua, dove andiamo a abitare, ti butto fuori di casa, mi ha detto. Quindi a un certo punto te l'ho regalata, la prima cosa. Poi la seconda cosa, il capocondomino dice, se tu installi una cosa del genere, dice che a un certo punto dice, basta, mi ha detto, ti denuncio. Quindi ho preso e dovuto regalarla, solo che la tira adesso non è vero. Ma ci credo, Antonè, ci credo. Guarda, adesso ho portato di nuovo, sono di nuovo con la Grazioli e sono a, l'ho portato a 50 watt, adesso l'ho portato a 100, guarda, to, riesci a vedere? 100 watt, avanza, mi copri meglio? 9,30. 9,30, ma se tu vedi la mia posizione ti metti le mani in testa. Sì, ma è FM però... Fare in AM dovrebbe essere 9,20, una cosa del genere. In AM ero poco fa, eravamo poco fa, 9,5 mi ricevevi. Fai un po', due secondi senza toccare nulla. Adesso siamo, adesso sono in in FM. Sì, quante volte sei adesso? 100, a palla. Ok, adesso a 100 così a palla. Passa in AM un secondo. Ma di cosa stiamo ragionando, Antonè? Aio e finimo nera. Uguale come poco fa. Già lo so che come poco fa, Antonè, ma queste radio non le danno 100 watt in AM, ma di cosa mi stai parlando? Due cose diverse, Antonè. Veramente diverse. Non lo so, io scusa dite, io sto parlando solamente la barichemo. Ascolta Antonè, ma lo attacco il Superstar ed esco con 400 watt, eh? E ti faccio vedere che arrivo più di 9,40 da te. Lo vuoi vedere? Ci credo, ci sei già arrivato, già lo sai anche tu. E allora, ma di cosa stiamo parlando, Antonè? Ma di cosa stiamo parlando? Io attacco il Superstar adesso, ti faccio vedere che ti arrivo 9,40 a Sassari, 9,40, 9,45. E allora, ma la radio è la radio forte. Cioè, non facciamo certi paragoni. Io in AM con questa radio qua, liscia, arrivo a 9, arrivo a, in AM 40 watt. 40 watt, e poi mi possono dire, ma arrivano anche a 50, 60. Non è vero, non è vero. 40 watt, il 4,40 spara, non è vero. 40 watt, dato la scheda tecnica, se tu hai un 4,40, un 4,30, un 6,80, un 140, in AM erogano 40 watt. Da scheda originali, questa radio qua originale è da 40 watt in AM, 100 watt in FM, 100 watt SSB e 100 watt in Lima Sierra Bravo. Ma è risaputo, no? Non sto dicendo niente di nuovo e niente di particolare. Tu non puoi prendere e fammi un paragone che in AM, fammi un passaggio in AM, io te l'ho fatto, perché te l'ho fatto, non ho problemi, però ho dovuto regolare il carrier in modo che dava 40 watt la radio. È così, Antonè, perché altrimenti rompi i finali, o dici tutto saturo, o dici tutto strappato. Per me quello non è fare radio, per me quello è fare porcherie. Per me quello è fare porcherie. Purtroppo la penso così, io la penso così. Adesso mi guarda lì, io se voglio, guarda, sto uscendo con 70 watt, gli do appena appena di potenza, 100 watt, tondi, tondi, tondi. Quindi 9,30 sono da te, 9,30 sono da te. Da Claudio a Muros, da Claudio Chioda Arrugginito a Muros, così con 100 watt arrivo a fondo scala. A Ozieri, io ti faccio vedere che noi andiamo nel canale dove parlano loro, Ozieri, io a Ozieri così con 100 watt arrivo 9,40, Antonè, mi stai ascoltando, Ozieri, 9,40 in FM con 100 watt, perché a te arrivo 9,30? Dammi una spiegazione. Ci credo, comunque, non ti sto dicendo niente, la verità, a me mi aveva sempre detto, dice, guarda che il 680 e il 140 modificato da 100 watt in uscita, la verità, Guarda, addirittura io lo usavo sempre a 50 watt, se vuoi sapere, sempre a 50 watt ho usato io, sia uno sia l'altro. Tramite watt, metto la verità, altro non ti posso dire, poi di più, non lo so. Antonè, 100 watt, modificato arriva a 100 watt. Può essere, diciamo che può essere, mettiamola così, mettiamola su questo piano qua, può essere 100 watt. E la radio com'è? Ma ascolta un attimino, io la mia domanda è questa, ma se la Kenwood, no? La Kenwood ha progettato un apparato come il 140, come il 6, lasciamo perdere il mio, come il 680, come il 440, come il 430, per uso militare, perché quelle radio sono state progettate per uso militare. Sono radio usate nella guerra del Golfo, non è che non sto dicendo niente di nuovo, però perché non questo, perché la Kenwood non Pinco Pallino o Cosu o chi d'altro, perché non hanno preso e non l'hanno smanettato anche loro ad arrivare a 100 watt? Ma la gente se l'ha mai fatta una domanda? Eppure erano gli anni che c'era la concorrenza tra costruttori, tra Icom, Kenwood, Yaesu e altri marchi. Perché pur di venderne di più non l'hanno fatto uscire con 100 watt puliti? Perché sono radio che con 100 watt in AM non possono mai andare, e tu puoi fare le modifiche che vuoi, o esci strappato, esci, scusando la parola, scusate se ci sono parenti vicino a voi, però devo dire, esci a una merda. Antonè, è quello il discorso. Poi uno può avere i picchi di modulazione, può avere quell'altro ancora. Il picco di modulazione lo dà il buon microfono, l'alimentazione giusta, lo dà qualsiasi cosa si voglia fare, tranne toccare la radio dentro, perché la radio è stata progettata per avere certe prestazioni. Non il cacciavite, ci sono buoni tutti a girarlo, Antonè, però poi bisogna vedere anche le complicazioni che dà, perché ho sentito radio con 100 watt in AM che fanno schifo, ma non schifono ancora di più. Vai Antonio, fuori di testa, cazzo, ma se vai con 100, io tutto due che ne ha avuto con 100 watt non ci andavano manco per idea in AM. Cazzo, oltretutto crepi finali, e se crepi quei finali sono dolori, perché ci vogliono un bel soldi aggiustare la radio. Mai fare quella cagata lì, mai, poi mai. Massimo che può dare 50 watt, boh, massimo. Poi cazzo, la sfondi la radio, la crepi, Questo lo so per esperienza, perché io ce li ho avuti Kenwood, lo devo dire, ce ne ho avuto due, e dallo strumento mio più di quel tanto non dava, non potevi andare oltre perché già strappava, dovevi intorno ai 40 watt, 50 massimo. Chi ha Kenwood? Che si crebbe il finale. quello ho messo io da coglione con GBP 4 tomi, eccetera, eccetera. Dopodiché ho avuto un problema e ho dovuto venderlo e in pratica poi è stato staccata Olbia e OGB 4 tomi che poi hanno avuto problemi eccetera eccetera e discorso è così, ma se avevo saputo stato quello non l'avevo dato. Il discorso è quello, l'unico apparato il C80 che ho avuto io che funzionava veramente bene, che mi dava 50 watt in AM sul watt metto 8 birri, parlo di 8 birri, non sto parlando di un watt metto normale, l'8 birri era solamente quello, basta, il C80, quello che ho avuto io, tutto lì. Il discorso è questo, comprato uno solamente uno, è durato più di 15, quasi 15 anni dovrebbe essere durato, una cosa del genere, adesso non mi ricordo la verità, è uno dei primi che ho avuto io come apparati, il discorso è quello lì, però pompava e era un turbo era caso, quella panica lì. Poi ho dovuto vendermelo per storie mie eccetera eccetera, quello che dopodiché ne avevo comprato un altro ma non era più non era più come quello, ma era totalmente diverso, cambiavano il watt eccetera eccetera, è cambiato tutto, capito? Quindi in pratica è stato fatto dall'armatore, modificato l'armatore, il primo che ho avuto io, eccetera eccetera. La verità era veramente bello. Poi dopodiché cosa ti posso dire? Altro non posso dire. Vabbè. Vi siete calpestati. Non mi sta parlando di 100 watt in AM, 10 watt in più. Ci potrei anche credere, io ti posso dire una cosa, che io ho 450, io con il 450 metto una M e ti posso dire anche una cosa, che io le radio le misuro anche con l'amperometro. Perché? Perché? La radio, dopo questa radio qua, questo 450 che io dopo ti faccio anche vedere una cosa, che io nel trasformatore, nell'alimentatore di questa radio ho l'amperometro. Quando io la metto in AM non posso andare più di 9 ampere, 10 ampere, 9 ampere e 8, 10 ampere, e 9 ampere e 8 e 10 ampere lei sta erogando 40 watt a picchi positivi a 42. Se io mi azzardo a mettere, a sollevare un po' il carrier e portarla a 10 ampere, 4, 10 ampere, 6, lì inizia a dare 40 watt a picchi negativi a 37. Quindi io devo posizionarla lì perfettamente a 10 ampere in modo che ho picchi positivi da 40 a 42 watt. Cosa vuol dire? Che la radio è stata progettata per certi assorbimenti pure. Non è che io posso alzare anche il carrier a manetta, lì prende, va, spinge, vai, spingi, non ti preoccupare, intanto c'è il carrier. Sì, però bruci finali. E l'alimentazione va negativo, cioè perché l'amperometro, una volta che io prendo e sollevo più di quel tanto, provata un paio di secondi, l'ho provata, prende, vado a modulare e mi va da 10 ampere scende a 6 ampere 2, 6 ampere 3. In questa maniera, come la uso io a 10 ampere, quando modulo sale a 13,6, 13,7, ho picchi positivi anche in alimentazione. capito Antonello qual è la differenza, qual è il sistema che si è usato in questa radio. Non è solo apprendere e girare le cacciavite, ci vuole più alimentazione, ci vuole, perché non è così. In M richiedono corrente, vogliono corrente, vogliono molta corrente, quindi bisogna fare certe modifiche. Ma ripeto, ma secondo voi la Kenwood, ma per vendere più radio non avrebbe potuto portarla a 100 watt, modificare qualcosa? Non l'ha fatto, perché queste radio sono state progettate per quell'uso, eppure uso radio trattati, ma non questa che ho io, però il 140, il 680, il 440, il 430, sono radio progettate e sono state costruite per mandare in guerra, hanno fatto la guerra del Golfo, quindi sono muletti, sono trattori che se vengono adoperate in modo eco alla loro costruzione, durano 100 anni, però il cacciavite è bello, tutti possono andare in ferramenta a comprare un cacciavite e toccare il trimmerino, dice però mi dà 50 watt, mi dà 50, 60, 100 watt, sì, ti dà 100 watt di mondezza. Poi a metterla a posto ci vogliono 200-300 euro per riallinearla. E quelle sono le occasioni che si fanno qua a Sassari, oppure molte di quelle occasioni si sono fatte qua a Sassari e radio scacciavittate da gente incompetente. Io non è che ho i peli sulla lingua e lo dico, purtroppo è così, la verità. E chi non la vuole sapere, chi non la vuole sentire la verità, prende e cambia canale, la rotella ce l'ha e cambiano canale, purtroppo è quella, la verità è questa. Prese scacciavitate, fatte alla carlona, fatte convinti di fare chissà cosa, invece hanno fatto solo schifezze e hanno rovinato le radio. Comunque è così, è così e basta, non c'è da prendere, da parlarci più di tanto. La radio per uscire forte basta prendere e cambiare il microfono e basta fare certi accorgimenti a livello microfonico. Vai Anto, riprendi con questo passaggio, ne lo farò, poi vi saluto. La radio, anche se ha pochi watt, se la vuoi fare uscire forte, gli attacchi quello che li devi attaccare e lì cambia totalmente, e lì il discorso. Io non sono tanto per le radio spinte troppo estreme. Io se devo spingere di più attacco il lineare, punto, lo dico chiaramente, lo dico. La radio può avere anche 3 watt, 4 watt. A me mi basta così, io per farmi sentire, se mi voglio far sentire, attacco un lineare. E cambia totalmente. Poi, vabbè, con le radio, come abbiamo detto, che Kenwood, quelle radio lì, devono uscire in quella maniera. E boh, finito, non devono essere seminati. Cioè, perché, ripeto, se con le radio li tiri troppo, facile finale e sono dolori, sono cavoli amari proprio, sono cavoli amari, perché io lo so perfettamente, lo so, quando ce li avevo io era così, era avanti, capì? No, ma è giusto, la radio, queste radio sono, non è che devi prendere, devi strapazzare, devi fare, devi usare, purtroppo loro hanno un limite, poi vuoi uscire più forte, ti prendi un baracchino oppure ti compri un amplificatore HF e dici, o se no ti prendi un baracchino con 5 watt, prendi un baracchino, gli metti un amplificatore da 1 kW e esci con il segnale forte, No, ve la moda di biglia e toccare il radio, c'era la moda di toccare il radio, scacciavittare, e gli ingegneri della Kenwood, con i cacciavitti a taglio piccolini. Vai, per carità, l'avevi preso, l'avevi pestato le mani dalla mattina alla sera, hanno rovinato solo radio. Vabbè, ma non parliamo solo di Sassari, parliamo in tutto, diciamo, in tutto il mondo, dove c'è stata sempre gente che non si è mai messo le mani, scusando la parola, in culo, e a lasciare le radio come mamma le ha fatte, rovinando apparati. Per carità, non guardando alimentazioni, non guardando, perché poi prendono, le rompono e le vendono, e diritti danno la fregatura, diritti prendi la fregatura. Per carità, va bene ragazzi, io con questo passaggio chiudo la trasmissione, perché domani mattina la sveglia è presto, devo fare un intervento e devo andare zona ricca, quindi chiudo la trasmissione qua e ci mettiamo a letto. Ciao Antonello, ciao Antonio, buonasera Tino e Franco, stasera non sono entrati, magari hanno dei loro impegni, e chiudo la trasmissione, dai. Buonanotte a tutti e anche agli eventuali, SWL che si siano fermati in questo canale per fare un po' di ascolto. Buonanotte a voi e al vostro QRA familiare. Ciao ciao, riprende Antonio e chiudo. Ho capito, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao, buonanotte. Avanti a te. Oh, via cazzo. Per carità, AMC è lei che diceva quello, quindi tutto che a quelli siamo fregati a un certo punto. Andare, ok, ciao, ci siamo le prossime domani al limite. Buon lavoro, buon tutto, e che te la scelta, no? Tu già lo sai, ma sei in mezzo nell'audio, quindi qualcosa già lo sai anche tu, quindi se una cosa toccata si riferisce subito a un certo punto. Andare, allora vuol dire in carità, cioè lui è fatto così, cosa dobbiamo farci? Chiunque se l'ascolto, che modifica gli apparati, l'ADC, l'AMC, come me, che sono un coglione, la verità, che lo faccio anch'io, l'AMC, l'ADC, a un certo punto siamo uguali, per come ha detto lui, quindi sono anche il coglione anch'io a un certo punto. Vabbè, è vero, gli apparati quando si compra, non c'è niente da fare, se poi da voi se possono modificare dalla fabbrica, naturalmente io parlo dalla fabbrica, che c'è lo schema per poter modificare eccetera eccetera, potete farlo quello che volete, però lasciate perdere quello che posso, le coordinate che faccio io e la tangente, il discorso è quello lì, ve lo auguro, la verità, quindi a un certo punto tutto a posto, avanti ripiglia tu. Molte volte sì, si fanno le cose, però io sono di quel parere anche che io non ho la verità e ti dico, ma non me ne frega un cazzo, cioè ti dico la verità. Io più delle volte le radio preferisco che siano un po' che watt, poi già ci penso io a trasformarle, a tacolineare. E vedi che esce la radio e come. Vabbè, ma quindi sempre con tu usare la verità si dica comunque sia. dicendo un sacco di roba, ma ci passa anche di lineare addirittura, quindi cioè, se va a uscire, uscire come nato e basta, il lineare non ci sta, perché non ci sta sto per fare niente, perché ci saturo, a meno che meno vate e cosa del genere, il discorso è quello. Ma sono tutte cose, hai capito? Tra una cosa e l'altra, tutte una presa all'altra, il discorso è quello. Tutte conseguenti, diciamo così, là. Sì, ma non è così, no? Fregatene che sei allineato bene. Tu non te ne accorgi neanche che io uso quelle cose. Certo non vado a dirlo a nessuno. Se sono allineate bene le radio, tu non te ne accorgi. Se sono allineati bene tra apparato e radio, non te ne accorgeresti mai. Te ne accorgi magari perché il segnale è alto, forte. Ma tranquillo che non ti inabizzi. E vabbè, là, adesso... è un discorso diverso quello. Io ti parlo di molto prima, la verità, prima si modificavano gli apparati, eccetera, eccetera. Quello che addirittura il mio 70 era modificato tanto per due a te. Quindi dava 100 watt, bastava solamente modificare il finale. E andava bene, hai capito? Tutto lì. Cambiavi il finale e ti dava i dati che ti dava, usciva perfetto, senza essere saturo, eccetera, eccetera. Tutto quello lì. Nel 70 parlo io, eh? Sì, lo so, Antone, però c'è il rischio di fare un bel danno. No. Secondo me anche per i componentistica, per la cosa, no. Non vogliono tirare le radio per come la penso io, troppo tirate, si scaldano i componenti. Ma cioè, le abbiamo sempre tirate, che cazzo stai dicendo, 15 watt, cosa del genere, cazzo qua, non so mai morte, cazzo, quegli apparecchi, quindi figurati tu, a un certo punto, il discorso è quello lì. Vabbè, oramai, cosa vuoi fare? Sono tutte modificate, quindi a un certo punto... Vabbè, adesso io ti parlo di aree prima, non di adesso. Tu parla delle radio degli anni 80, 90, 2000, 2001, 2002, fino al 2023. Dopodiché... la 2023 poi scordatelo, e sono tutte i finali sono diversi, perché i finali sono diversi, quindi a un certo punto non si può più modificare niente, a un certo punto, quindi, ma prima sì. Ehi, si è fatta bene la radio, vedi che questa è originale, eppure funziona bene. Appunto per questo sto dicendo. Quindi dal 2022 e anche 2021 vanno bene, anche 2020, 2019, 2018, eccetera, eccetera. Adesso gli ultimi che sono usciti che sono SDR, ormai in pratica gli apparati cosa fai? Li compri e ce li butti nella mondezza, il discorso è quello. Si bruciano, basta, non li puoi modificare. Sono finali, non puoi modificare, non puoi toccare niente, quindi nella mondezza, basta, il discorso è quello lì. Già lo so, già lo so. Qua c'è la versione A di questo che fa cagare, fa. Questo qua è la versione B ed è molto migliore. Appunto, ci sei arrivato, quindi in pratica è così. Per me, cioè, io l'apparecchio che ho perlomeno è così. Lo so come funziona, Tore. Quindi, qui sono con 15, 20, aspetta, 20, vabbè. Più di questo non mi dà. Quindi figurati tu. Ora. E tipo del finale che ho io, che monto io in questo apparecchio qua, capito? È l'originale. Capito. Se avuto il 70, se da quello sei risalito. Vabbè, adesso già me lo prendo, il 70. Me l'ho già ordinato, quindi fa poco, 2,70. Appena arriva, da 100 parte giù si dà. Sì, vabbè, ma non le dirà troppo. No, tranquillo, no. Questo lo do a Giovanna, questo apparecchio. Questo qui è Giovanna, l'altro invece è mio. Qualcuno sta entrando, avanti. Sembra che sia entrato qualcuno. Non lo so, studiamo un po'. Dove ci sei? No, non c'è. Quindi evidentemente no, non c'è. Gappa. Oh Antone, io mi sto per addormentare. Ciao, buonanotte. Ci sentiamo domani, ok? D'accordo, ok, a domani ci sentiamo. Stammi bene, buonanotte, buon tutto, buon lavoro. Che domani si travaglia. Ma non lo so veramente se domani si lavora. Beh, io già sono qua, comunque. Sono a casa. Devo sistemarmi con la mantova, quindi a un certo punto, appena la mantova è a posto, prendo e la installo. Capito? La base è già pronta, c'è tutto quanto a posto, la schiatta, messa le viti, adesso l'unica cosa che devo fare è sistemare i radiali, più che altro. Me ne mancano due, devo andare a come comprarli, mi piacciono tutti e due e siamo a posto. E quelli già si trovano. Ok, dai, buonanotte. E altrettanto, va, ok, buonanotte anche a te. Ciao. E ciao.